Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Andremo avanti fino alle ore 21.30, ma partiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, allora questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che ogni giovedì va in onda qui dagli studi di Radio Onde Furlane in diretta dalle ore 20 alle 21.30, anche oggi 24 ottobre 2024. E ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Andiamo ora così allo spazio musicale, subito direi alla grande, con questa band svedese direttamente da Stoccolma. Più volte li abbiamo passati in questa trasmissione, ma anche perché nelle scorse settimane è uscito un altro, un ennesimo loro album, quindi l'ultimo, che si chiama Life Knife Death. Loro sono i Wolf Brigade, band che si è formata nel 2000, anche se in precedenza si chiamava Wolfpack. Comunque noi ci ascoltiamo questo ultimo album dei Wolf Brigade. We'll be right back. Sì, allora un saluto a chi ci ascolta, a tutte, a tutti, a tutte. Così abbiamo anche usato questa, cioè un tentativo di usare questa schwa, questa E rovesciata, questo vocale intermedia così sospirata che evoca il primo argomento della serata. Allora, abbiamo pensato di dedicare questa puntata di Zardins proprio a un'iniziativa che si svolgerà domani sera presso lo spazio autogestito di Udine di Via De Rubeis 43, e cioè la proiezione di Orlando, il film di Paul B. Preciado. E, però prima, allora, intanto abbiamo un ospite, un compagno della laboratoria Transfemme Queer di Udine, appunto, che ringraziamo di essere qua. Buonasera. Ciao. Ciao a tutti. E allora con lui cercheremo un po' di parlare di questa iniziativa, un po' della genesi anche, no? Di come è venuto in mente di proporre questa proiezione e anche di un pregresso che c'è rispetto a questa scelta di fare la proiezione. Da parte mia, inizia così come inizio, posso dire che parleremo anche dell'importanza di proiezioni di questo tipo che riguardano appunto il genere, ma soprattutto la decostruzione anche del genere in senso universalistico e la lotta contro il binarismo, e di parlare di tutto ciò in un contesto autogestito, quindi tra soggettività minorizzate e non in un contesto, diciamo, mainstream. Ecco, e lascerei la parola al compagno. Sì, eccomi qua. Allora, parto appunto da un evento successo a maggio di quest'anno, no? Nel quale il CEC, il Centro Espressioni Cinematografiche, presentava al visionario questo film di cui appunto abbiamo accennato, che sarà proiettato anche domani, appunto intitolato Orlando, la mia biografia politica di Paul Preciado. Ecco, ovviamente noi abbiamo pensato per quell'occasione di andare a contestare non il film di per sé, che pensiamo sia, anzi, contenuti che approviamo, condividiamo e pensiamo siano nostri, insomma, ma bensì perché solo qualche mese prima il CEC aveva invitato in un'altra delle sue sale che detiene, insomma, la presentazione di un altro libro, di un libro intitolato Il mondo al contrario, del famoso generale Vannacci. Ecco, questo libro qui, per, sì, a nostra idea, insomma, è completamente transfobico, ma non solo, è razzista, bilista, omofobico, chi più ne ha più ne metta, diciamo. Quindi ovviamente trovavamo un'ipocrisia enorme da parte del CEC, insomma, ad ospitare, subito dopo aver ospitato Vannacci, questo film qua di Preciado che parlava appoggiando la comunità queer, ecco. E di conseguenza siamo andati là, ci siamo presentate e abbiamo preso parola poco prima dell'inizio, insomma, del film, proprio nell'introduzione, durante la presentazione, ecco. E, perché ci tenevamo appunto a diciamo a rendere pubblico, informare le persone, anche lì presenti, magari simpatizzanti anche verso queste questioni, dell'ipocrisia appunto del CEC. E nel frattempo però il CEC si lavava le mani dicendo un po' anche tirando in ballo i concetti di democrazia, no? Diceva che loro avevano ospitato Vannacci, ma perché non è una libertà di opinione, dobbiamo dare spazio, la parola, a tutte le persone, noi non facciamo politica, non siamo politici, però appunto a nostro parere quelle di Vannacci non sono opinioni che possono essere democraticamente esposte, perché per noi sono violenti e pericolosi attacchi d'odio verso la comunità trans e queer, e quindi di conseguenza sono altrettanto gravi e ingiustificabili queste posizioni, e lasciare spazio a queste posizioni è inaccettabile per quanto ci riguarda. E inoltre, oltre a questa cosa, c'è anche da ribadire, abbiamo anche informato in quell'occasione, che il CEC aveva anche rifiutato diciamo una proposta da parte di un'associazione friulana di qua, che si chiama Euforia, un'associazione della comunità, cioè che diciamo si occupa della comunità trans per quanto riguarda sia il percorso istituzionale che i vari percorsi, insomma, che le persone trans devono affrontare. E quindi si era accordato in realtà precedentemente insieme a questa associazione per proiettare un film sempre su queste tematiche qua e sensibilizzare diciamo la popolazione udinese, ecco, in occasione di una giornata che era la giornata per la memoria delle vittime trans, ecco. E preso gli accordi, tutto accordato bene, scelto il film, scelta la data, poco prima è sparita improvvisamente il check, non si è più fatto sentire, e a ridosso della data, dopo vari tentativi di contatti per capire, riconfermare insomma questo evento, il check, a parte non aver risposto a tutte le prime, i primi tentativi, solo chiamando con un altro numero che loro non conoscevano sono riusciti a contattarli e praticamente gli hanno detto che non c'era più la disponibilità dello spazio, perché avevano dato ormai la sala a un altro film probabilmente un po' più economicamente più remunerativo. Esatto, esattamente. E ovviamente questa cosa non la sa nessuno, l'abbiamo voluta dire a quel giorno apposta, anche per dimostrare quanto stiano dietro ai tornaconto economici, insomma, riguardo lo spazio. Quindi va bene, sì, andava bene per loro dare spazio alle tematiche queer, LGBT, queer plus, ma solo se c'è un film abbastanza illustre, famoso, famoso, esatto, da poter vendere tutti i biglietti, perché se si tratta di altri film con associazioni un po' meno conosciute, questa qua friulana territoriale, invece assolutamente no. Ecco, e quindi ci tenevamo a dire là che questa per noi non è cultura, ma è puramente pinkwashing, è puramente voglia di lucrare sui corpi delle persone della comunità queer, sulle tematiche, appunto queste tematiche qui, e che queste vite per noi appunto non possono essere utilizzate come vernice rosa per ripitturare un po' la reputazione oppure la coscienza. E niente, quindi appunto detto ciò, abbiamo anche sostenuto che quello spazio non era uno spazio safe e adatto per guardare questo film, e quindi ce ne siamo andati dicendo che ce lo saremmo guardati per conto nostro, e finalmente domani insomma è arrivata l'occasione per poterlo fare. Di fare questo. Esatto. E il pubblico, se posso chiederti, la sera della contestazione ha reagito in maniera così omogenea oppure ci sono state diversità di atteggiamento? No, devo dire che l'ho visto un pubblico molto attento dall'inizio alla fine a capire cosa stesse succedendo un po', non se l'aspettava obiettivamente, nessuno se l'aspettava in quel momento, infatti noi ci siamo presi la parola senza che nessuno ci avesse dato effettivamente la conferma o il permesso. Sì, sì, avete fatto un'improvvisata, una vera e propria improvvisata, quindi esatto. Avete spiazzato tutto il pubblico, e quindi questo ha creato anche curiosità, una curiosità positiva però ho visto comunque, perché anzi ho visto sguardi che confermavano un po' questa ipocrisia del check, sebbene nessuno comunque ha avuto il coraggio di alzarsi e andarsene come abbiamo fatto noi poco dopo il nostro intervento. Ecco, siamo stati solo noi ad andarcene via e non fermarci più lì a guardare il film, però questa cosa comunque è rimasta, insomma, tant'è che poi anche successivamente ero per strada in giro per Udine e vengo fermato da una signora che era presente quel giorno, che mi ha fatto i complimenti e mi ha detto grande, no, avete ragione, veramente ho provato a cercarvi, capire dove siete, perché forse non ci eravamo firmate in quell'occasione il volantino, ecco, però ho apprezzato molto, quindi l'impressione che ho avuto è stata positiva, anche data da comunque la presentatrice, che non ha assolutamente interrotto, ma anzi ha cercato di validare il nostro discorso in qualche modo anche dopo che ce ne siamo andate. Ok, allora io metterei ancora un po' di musica e poi entriamo più in merito proprio al film. Oh. Allora, arriviamo un po' più, entriamo proprio dentro il cuore, diciamo, di questo Orlando. E dico due cose solamente che mi hanno colpito un po' leggendo anche quello che Preciado stesso dice, no, della sua, di questo suo lavoro. Cioè, lui intanto parla molto della Virginia Woolf come di una specie di antenata, di talismano addirittura. Lui dice che questo libro, Orlando, per lui è stato per tanti anni come un talismano, ce lo portava sempre dietro con sé. Perché appunto lui ha scoperto questo testo quando era a scuola dalle suore. Lui è spagnolo e è nato nel 70, quindi diciamo che ha vissuto l'adolescenza nel periodo subito successivo alla morte di Franco, che è morto nel 75, nel quale comunque la società spagnola era fascista tanto quanto prima, insomma, e quindi insomma una società chiusa con parecchie difficoltà così per le persone, diciamo, non conformi. E lui dice che appunto andava a scuola dalle suore e le suore stranamente avevano anche questo testo nei testi, insomma, consigliati per la lettura. Lui legge questo libro e capisce che di essere Orlando, insomma, di essere un Orlando. E nasce questo filo molto forte con la Virginia Woolf, con la sua scrittura. Poi lui dopo, successivamente, appunto, studierà, magari poi dopo ne parliamo, anche un po' quello che è stato tutto l'ermeneutica, lui la chiama, contraddittoria anche rispetto a questa scrittrice. Ma la cosa importante, dice che proprio la lettura della Virginia Woolf permette di la dissoluzione, leggo da quello che dice proprio lui, è una promessa di libertà e permette la dissoluzione della centralità e della normalità cognitiva del narratore contenuta nella sua scrittura. E questa roba, lui dice, è contagiosa, nel senso che questa tensione fa mutare anche il lettore o lo spettatore, insomma, in questo caso. Ecco. E con queste premesse, come parlaci un po' del film. Infatti mi aggancio proprio qua, perché proprio come nel libro appunto di Virginia Woolf, di Orlando, anche Paul Preciado percorre un po' la vita di questo giovane aristocratico, appunto, e solo che nel film è rappresentato da molte più identità, quindi una molteplice identità. Infatti continuamente il protagonista è interpretato da persone che appartengono a generi, età, origini diverse, no? E il film si muove un po' anche fra un clima novecentesco e un clima attuale, continuamente accompagnando lo spettatore, insomma, nel viaggio della transizione che ciascun Orlando sta vivendo in quel momento preciso. Infatti vengono rappresentati diversi vissuti attuali che si possono incontrare nell'esperienza trans, a partire dall'interfacciarsi con le istituzioni psichiatriche e a quelle anche giuridiche, quindi il cambio nome, documenti e via dicendo. È un aspetto molto importante, siccome, del film, appunto, che nessuna attrice è un'attrice veramente. Infatti sono tutte vite, sì, sono persone reali, insomma, non costruite, che raccontano la vita personale, e sì, questa vita personale di questi Orlando si intrecciano con la vita dell'Orlando di Virginia Woolf, no? Fondendosi in un'unica cosa, che è poi quello che ne esce un po' nel film, no? E lui lo fa anche attraverso la scenografia, perché poi utilizza un po' anche vari stili, diciamo, cinematografici, questo stile cinematografico particolare in cui mette insieme costumi e set di diverse epoche, no? Diversi, sì, anacronisti, quindi, e mette anche soggetti che abitano dei vestiti odierni, però immersi in contesti, ambienti un po' storici, e anche viceversa, quindi fa entrambe le cose spesso nelle scene, no? E questa stilistica vuole un po' sottolineare questo, il legame che c'è tra le persone trans esistite un tempo e le persone trans che esistono adesso. E un po' il messaggio trasmesso è quello di aprire questa conversazione, no? con lo spettatore, sì, gli spettatori trans, incitare un po' anche a, sì, a non ridurre la propria esperienza a un dolore, ma anche a riconoscersi e stabilire quella connessione che non può essere mai interrotta neanche con la morte, appunto. E Preciado, devo dire che eccelle un po' nel rappresentare la moltitudine di queste identità. Uh-huh. Ci invita costantemente a riconoscerci un po' in Orlando, no? in questi personaggi, e un po' come anche nel suo libro, nel suo ultimo libro, appunto, fa in Disforia Mundi, che trasforma appunto questo sentimento che chiama disforia, ma che in realtà si tratta di un sentimento, di un disagio, diciamo, un sentimento provocato dalla marginalizzazione, ecco, lo cerca di trasformare, lui l'intento di trasformarlo in qualcosa di ottimista, perché sostiene che l'ottimismo sia proprio uno strumento di lotta collettiva che dobbiamo adottare, che ognuno di noi, ogni Orlando, dovrebbe attivare, ecco. E non solo ogni Orlando, perché poi appunto anche nel libro Disforia Mundi si rivolge a un, è molto più inclusivo rispetto alla comunità queer, cioè si rivolge a tutte le persone, non solo le persone che appartengono alla comunità queer, poiché chiunque provi, dice, questo sentimento di disagio, inadeguatezza, può far parte di questa lotta qua. Ecco, questo è un po' il suo augurio, sì. Diciamo, in questo sia nel film, ma direi in generale nella sua filosofia, nella sua ideologia. Sì, io aggiungo che secondo me, oltre a, diciamo, si rivolge a tutti quelli che sono in una zona di disagio o di non riconoscimento o di minorizzazione, ma appunto a tutti gli oppressi. Esatto. In senso anche, perché parla molto anche nei suoi scritti, anche ad esempio delle popolazioni colonizzate. Lui ad esempio ha studiato anche con Angela Davis, quindi ha approfondito anche molto il discorso della intersezione, diciamo, tra femminismo e questione nera, di emancipazione dei neri, quindi incrocia tanti aspetti. E rispetto al discorso che dicevi anche della costrizione, diciamo, per le persone trans ad interfacciarsi anche con le istituzioni, anche quelle più spietate come quella della psichiatria, io ho visto dei pezzi del film, ma ad esempio c'è una scena che è la sala d'aspetto dello psichiatra, che è veramente bella, cioè anche divertente, però è divertente perché appunto è molto onirica, diciamo, anche poi per come si sviluppa cinematograficamente. Però lui dice, ad esempio, di quella scena lì, dice, sì, ma è importante, cioè ci mandano dallo psichiatra a uno, perché così ti diagnosticano la disforia, appunto, di genere, e ti dicono adesso io ti curerò, ma invece bisognerebbe andare tutti insieme. Mm-hmm. Tutti insieme, andando tutti insieme non è non sei più, diciamo, preda, o comunque non è più una posizione di debolezza, ma vai lì, è come vai lì a rivendicare una roba, no? Non a elemosinare, diciamo, tra virgolette, una cura, o a farti fare un certificato, perché così puoi poi compiere magari altre scelte che vuoi compiere. Esatto, sì, ma poi anche proprio dal titolo Disforia Mundi, lui sostiene che in realtà è un mondo disforico. Uh-huh. È il mondo che prova disagio, cioè è un mondo che è sbagliato, ecco, non siamo noi o comunità uh-huh. trans a essere disforica, ma è proprio il contrario, e quindi uh-huh. rivendica un po' quel senso di disforia, quel senso, quella diagnosi di disforia che viene rilasciata appunto alle persone trans che devono iniziare un percorso medicalizzato, come questo non si sta a significare niente, ma cioè in realtà è il mondo che non, cioè, è disforico, e quindi siamo tutti trans in questo senso. Uh-huh. Interessante, sì. E poi, ecco, sempre sul discorso di Virginia Woolf, come dicevo prima, lui fa tutta un po' un'analisi, no? Cioè lui dice appunto che c'è stato all'inizio, intanto Orlando è del 28, 1928, e all'inizio appunto lo studio su Virginia Woolf la vedeva come, cioè non considerava tipo la sua attitudine dal punto di vista dell'orientamento sessuale o del genere, eccetera. ma infatti veniva considerata anche una letteratura per addetti ai lavori, come dire, cioè difficile, no? Troppo aristocratica, ecco. Poi arrivano appunto gli studi femministi e quindi diventa quasi una letteratura femminile, femminista, perché comunque era anche femminista, le prese di posizione sono anche femministe per eccellenza, come dire. Poi arrivano gli studi queer, appunto, e esaltano più l'aspetto del lesbismo della Virginia Woolf, no? Però Preciado è interessante, secondo me, perché lui dice: in realtà Virginia sfugge da tutte queste, scappa da tutte le parti, cioè non riesci a fermarla in nessuna definizione, perché non è mai né, non è al 100%, non dice, non si sente, non si afferma come al 100% né donna, né femminista, né lesbica, ma né altro, no? E poi dice delle cose, leggo da un articolo che era apparso su Liberation, dice delle cose interessanti, ad esempio su anche sulle sue relazioni, no? Parla del marito, perché appunto aveva questo marito, Leonard, che lei ha sposato anche un po' per sfuggire a una situazione familiare, no? Oppressiva. Lei aveva anche un fratello che l'aveva molestata, per dire, cioè viveva una situazione comunque così difficile, non lineare. Lei sposa questo Leonard, però non è che cioè dice Preciado, amava Leonard non tanto come donna eterosessuale, ma come compagna, editore, confidente. Quindi comunque non distrugge, cioè Preciado non distrugge questa relazione con Leonard, no? Cioè la vede, la ricolloca, tipo, quindi anche la libera da magari lo schema matrimoniale, eccetera. E poi parla anche della filiazione, dice che anche lei ha immaginato il piacere della filiazione, anche perché era circondata dalla prole di sua sorella Vanessa, ma questa possibilità, insomma, di fare figli le si è presentata non come un desiderio di maternità, ma come la voglia di stabilire, al di là della divisione binaria padre-madre, un rapporto di comunicazione elfico con tutti i viventi, un albero, un cane, una mosca, il mare, un libro. Quindi questa così, questo trasporto, diciamo, verso il vivente anche, no? E poi parla della scrittura della Virginia Woolf come del luogo di una vibrazione enunciativa costante, che secondo me, da quello che anche tu hai detto, da come hai descritto anche le ondate che arrivano da questo film, insomma, anche le ondate appunto tra i morti e i vivi, no? Sì. Delle varie epoche, così, sì. Una cosa che sì, che emerge. Questo lo fa anche con una bella scena sulle catacombe francesi, in cui appunto questo Orlando, l'Orlando di quel momento, sì, va appunto a scendere nelle catacombe francesi e in qualche modo riporta un po' alla luce, in vita, le persone trans morte, ricollegandole al presente in qualche modo, sì. E poi l'audio, anche importante, di questo film. Poi ci saranno i sottotitoli, no? Immagino domani, sì, nella proiezione. Stati tradotti da noi interamente, quindi sarà, insomma, una roba così, in italiano. Sì, perché il film originale è in spagnolo, perché c'è una voce narrante, diciamo che quella di Preciado stesso, che è spagnolo, quindi parla in spagnolo, e poi in francese parlano, sì, no? Sì. Tutte, mi pare, sì, le Orlando. Esatto, esattamente. Quindi sì, ci sarà. E no, è interessante anche l'audio, perché ci sono appunto questo interloquire della voce di Preciado che racconta la sua relazione con Orlando, con il libro, con il testo. E poi ci sono le varie voci che recitano dei brani proprio del testo, quindi letteralmente, e poi intrecciano questi brani con le loro esperienze. Esatto. Sì, è molto coinvolgente anche il tipo di audio che ha utilizzato. È vero, poi è sempre un continuo entrare e uscire, da capire che vita se il personaggio o invece la persona che sta dietro a Orlando, no? Proprio un continuo fondere queste identità, che sono identità letterarie, identità, diverse identità in tutti i sensi, veramente. Bene. Ancora un po' di musica, allora. Allora, leggiamo ancora da un'intervista a Paul B. Preciado. Ci dice: il caos è uno spazio potenziale per la libertà. È incredibile come temiamo il caos più della violenza. Abbiamo paura della libertà più che della morte. Siamo totalmente addomesticati, normalizzati. Abbiamo tutti paura del caos, ma non ci curiamo del fatto che siamo sottomessi al regime della violenza. Invece io sono molto interessato proprio a quel caos, a ciò che arriva non dalla reazione alla violenza, ma a ciò che arriva dall'utopia. Infatti un po' riprendo questo caos qua, che secondo me è un caos iniziale inevitabile, appunto, soprattutto per quanto riguarda la comunità trans, o nel momento in cui inizi a decostruire il genere e a interrogarti sulla tua identità, è inevitabile che arrivi a questo caos, che però è generativo appunto perché dà libertà di essere quello che ancora non c'è e che invita appunto anche Preziado sempre a divenire, essere quello che ancora non esiste, e si distacca anche lui tanto da queste etichette, no? Etichette diciamo dettate tanto dalle associazioni LGBT, QR+, che critica un po' in qualche modo, che creano un po' invece una prigione mentale e ti relegano di nuovo all'essere, per formare un qualcosa prettamente costruito, ecco. E difatti l'essere trans è di per sé un modo per creare quel caos, e è proprio anche per questo che forse politicamente parlando attualmente viene così tanto criticato, e la politica italiana attuale si concentra tantissimo sulle questioni trans, perché è quel caos che non riesce a controllare. Uh-huh. e fa paura questa cosa, in primis appunto a chi ci vuole controllare, e perché appunto l'essere trans va a decostruire anche i concetti di orientamento sessuale, perché quando ti definisci trans e hai una persona che prova attrazione per te, cos'è? Che cos'è? Cos'è? Lesbica? Gay? Bi? Che cos'è? Non, è tutto un casino, diventa un casino, e quindi e questo proprio dimostra come l'essere trans va a decostruire qualsiasi cosa, in un senso più ampio, in senso appunto di non solo di orientamento sessuale, vite personali, relazioni amorose, romantiche, eccetera, ma per come dice Preziado, invita chi lo segue, lo ascolta e lo guarda a decostruire tutto il sistema. Bene, allora prima di annunciare l'appuntamento di domani, finiamo solo con una roba sull'ottimismo, che di cui parlavi prima all'inizio, no? Sempre in un'altra intervista lui dice: la gioia addirittura o l'ottimismo sono la metodologia politica degli oppressi. Non possiamo permetterci il lusso della depressione, perché altrimenti ci fanno fuori. Esatto. Politicamente parlando, depressione è ciò che sta accadendo alla società neoliberista, dal momento che mercato e forze conservatrici mirano a privarci della capacità di desiderare e quindi di pensare al cambiamento. Esatto, e vi invito appunto di nuovo a pensare a questo cambiamento anche domani, in prevista del finito di guardare nella proiezione. Appunto ci sarà anche una breve discussione per chi vorrà parlarne e confrontarsi, e appunto proprio per questo è stato deciso anche di fare questo incontro separato, proprio per riuscire ad avere uno spazio più safe, con persone appunto che masticano e bazzicano questi temi, per riuscire a appunto a confrontarci in maniera più libera e sicura. Ok, quindi l'appuntamento è per domani, venerdì 25 ottobre, nello spazio autogestito di Udine, di via De Rubeis 43. E allora alle 19:30 ci sarà un momento così conviviale iniziale, e poi alle 20:30 puntuali la proiezione, a seguire appunto così discussione. Sì. Bene. Grazie mille. Grazie a te e a domani. A domani. parlo su questo brano che stiamo ascoltando. Loro sono gli Always, band torinese, da questo loro album del 2013, la ricostruzione del distrutto. Loro sono appunto una band dell'area di Torino, Always. E poi volevo anche così ricordare che in precedenza abbiamo ascoltato, andando a ritroso, e Mitrail, che è una band belga che abbiamo appunto ascoltato prima tra i vari interventi, mentre prima ancora avevamo ascoltato una band texana, i Magger, e comunque per entrambe queste due band si trattava degli ultimi loro album usciti. Quindi rimaniamo ancora con questi Always. We'll be right back. Sì, ritorniamo in voce. Allora, sabato scorso, che era il 19 ottobre, e abbiamo come Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione abbiamo organizzato un presidio solidale fuori dal carcere di Via Spalato qua a Udine, e l'intento era quello non solo di passare un paio d'ore, insomma, così con musiche, saluti eccetera, discorsi, ma l'intento era anche quello di portare a conoscenza dei detenuti il più possibile di quello che sta succedendo, mi riferisco al decreto sicurezza, perché appunto non sempre le persone che sono recluse hanno la possibilità di conoscere un po' tutte le varie misure repressive, insomma, che bollono in pentola, anche perché accedono di solito alla televisione, quindi in televisione non è che si parli molto di queste cose, e c'è stato un dialogo abbastanza proficuo, abbastanza così utile, insomma, tra il fuori e il dentro, tra la galera di fuori, che è il mondo in cui viviamo, e la galera di dentro. E io mi sentivo a questo proposito di dare un paio di aggiornamenti sul carcere di Udine che sono emersi proprio il giorno successivo al presidio, e hanno tanto sbandierato già il precedente garante dei diritti dei detenuti qua del comune di Udine, già, e poi ha proseguito anche l'attuale, hanno parlato molto di questa ristrutturazione in corso dell'ex sezione femminile, che insomma c'è questo cantiere per cui dovrebbero realizzare in questa parte del carcere tutte le stanze per la socialità, per lo studio, per insomma gli incontri con il personale esterno, volontari eccetera, e addirittura parlavano di un auditorium, insomma, per fare teatro, queste cose qua, quindi hanno questo progetto come un fiore all'occhiello. Tra parentesi, esiste anche la possibilità, ahimè, per i detenuti che ne fanno richiesta, di lavorare all'interno di questo cantiere, quindi il lavoro che dovrebbe essere per una persona imprigionata un'occasione per uscire, no, dalle quattro mura, cioè per ritornare, diciamo, all'aria aperta, in questo caso il lavoro ricade ancora dentro la costruzione delle stesse mura che li rinchiudono. Ma oltre a questo discorso qua del cantiere così fiore all'occhiello, emerge che ci dovrebbe essere un altro cantiere, ma che ci dovrebbero essere fatti dei lavori di ristrutturazione importanti che riguardano il piano terra, perché nel piano terra del carcere di Via Spalato c'è la prima sezione dove sono recluse 57 persone, 57 uomini, prevalentemente stranieri e con problemi sanitari di vario tipo, che vivono in condizioni di inagibilità, è stato definito proprio così, inagibilità edilizia, muffa, umidità, insalubrità dei locali e avanti, insomma tutta una serie di... Ma comunque è stato detto anche dall'attuale garante, per dire, che se quella lì fosse una attività pubblica verrebbe chiusa immediatamente perché dal punto di vista sanitario non si può vivere in quelle condizioni. Ma il paradosso è che mentre c'è questo cantiere miliardario, insomma, per fare appunto la ricreazione, questi lavori di ristrutturazione che mettono cambierebbero la qualità della vita quantomeno delle persone che sono rinchiuse non partono, perché non sanno dove spostare i reclusi. Quindi sì, non sanno dove spostarli, il che significa che, pur essendoci anche persone che hanno pene da scontare ridicole dal punto di vista della quantità, del tempo, degli anni, non pensano nemmeno a misure alternative, a liberare, diciamo, il carcere, cioè a svuotare il carcere il più possibile, ma si continua in questo modo qua, con la lamentela, il piagnisteo su il sovraffollamento eccetera, ma in realtà Tra l'altro, a me ha colpito il fatto che queste persone che vivono in queste condizioni terribili di detenzione sono persone che vengono da altri paesi, quindi c'è anche qui una forma di, si parlava anche con i prigionieri durante il presidio di questa, del decreto sicurezza, di anche di questa guerra verso i migranti, no? che è stata scatenata in Italia. Non è da poco che c'è questa, è in corso questa guerra, adesso diciamo che siamo proprio ai bombardamenti a tappeto, perché tra appunto detenzione amministrativa, CPR, esternalizzazione della detenzione sia dei centri di accoglienza che dei CPR che della detenzione penale, diciamo fuori dai confini, quindi extraterritorialità però fuori dai confini, in Albania, i decreto flussi, cioè adesso c'è proprio una, sì, un fuoco di fila sui migranti. Beh, per dire, l'ultima cosa che è successa a Verona, e l'avreste sentita un po' tutti, questo giovane del Mali, Moussa Diarra, che è stato ammazzato da uno sbirro della polizia ferroviaria, cioè gli ha sparato 3 volte. Sì, non è che poi appunto ci sono alcuni uomini politici che veramente, sì, inqualificabili, che proprio rappresentano a pennello il razzismo di Stato, ma per dire, siamo a questo livello qua di agenti che sparano senza neanche, tranquillamente, insomma, ammazzano una persona, e un decreto sicurezza che prevede di fornire alla polizia armi private, nemmeno dichiarate, cioè armi private anche quando non sono in servizio e nemmeno dichiarate. Quindi immaginiamoci che tipo di milizia si prospetta. Allora, tutte queste cose qua, io ci tenevo a dirle per fare un collegamento anche col presidio, insomma, che abbiamo portato avanti sabato scorso, e volevo ricollegarmi con una, perché durante il presidio si è parlato anche di, cioè si diceva, ma non esiste solo la detenzione, no? La prigionia, esiste anche la possibilità, esistono anche altre possibilità, e si è nominata anche la latitanza, un po' perché appunto tra i prigionieri politici in tutto il mondo lo strumento della latitanza viene utilizzato, cioè è una scelta di appunto, come posso dire, di libertà, ma anche di distacco, no? Dal mondo così come dal mondo vissuto quotidianamente, insomma dal mondo così come lo conosciamo, quindi una scelta forte, molto importante, ma comunque è una scelta. E così durante la settimana, ragionando su questo discorso della latitanza, ma in tutti anche del diventare nemico dei propri oppressori, quindi sfuggire, no? In qualche maniera, ne abbiamo parlato poi anche stasera, anche rispetto all'argomento precedente. E così pensando, insomma, è venuto fuori questo opuscolo. Un opuscolo. No, mi inserisco, sì. Scusate, saluto a tutti voi, anche da parte mia. No, volevo inserirmi prima di passare alla questione opuscolo. Due cose che così. Volevo aggiungere, sì, è vero, per quanto riguarda Via Spalato, è vero, sì, cioè, la fattispecie della situazione, perché ci sono i lavori in corso, ecco l'impossibilità dichiarata, quindi la volontà di non trovare una soluzione concreta a questo disagio, sì, è vero che va in capo al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, diciamo nel suo complesso, quindi Ministero di eccetera, insomma di giustizia. È vero anche che va all'altro potere, però, che è il magistrato di sorveglianza, perché sono questi giudici, questi magistrati che con il loro menefreghismo, diciamo, funzionale, impediscono di praticare quelle strade, appunto, che sono sarebbero una via di uscita, diciamo, spicciola, ecco, a queste situazioni afflittive di anni e anni, insomma, che le sentiamo anche noi nel nostro piccolo, ma sicuramente di decenni, e che sì, quindi è una volontà, diciamo, una cosa, è intenzionale questo non riuscire a trovare soluzioni, che va sia appunto su un piano amministrativo sia sul piano però anche del potere giudiziario. Sì, giusto. E appunto stavo dicendo di questo, così per concludere, la storia di questo prigioniero, di questo latitante, di questo fuggiasco messicano, si chiama Miguel Peralta Betanzos, è un indigeno mazzoteco anarchico che fa parte del popolo di Eloxochitlán de Flores Magón Oaxaca, in Messico appunto. Allora, questo uomo è sopravvissuto ad una carcerazione di 5 anni e poi adesso è di nuovo bersaglio, non da adesso, da qualche anno, perché appunto è latitante da qualche anno, della politica repressiva statale della sua regione, che per reincarcerarlo ha utilizzato questo sistema che esiste in quel paese del delitto fabbricato. Cioè succede che quando un compagno, cioè un prigioniero politico, non può essere incarcerato per motivi politici, gli viene affibbiata qualche altra pendenza penale. Ma ricordiamo anche Monica Caballero, anche a lei era stato detto che era spacciatrice, che aveva delle sostanze stupefacenti, per dire, e per un po' per infamare e un po' per trovare un pretesto per incarcerare. Nel caso di Miguel Peralta, lui è accusato insieme a altre 34 persone del suo pueblo, diciamo, di aver tentato di ammazzare un componente della famiglia oligarca del suo villaggio, e per questo tentato omicidio questo compagno è stato condannato a 50 anni di carcere. Allora, sono interessanti, leggiamo dei pezzetti così di queste sue lettere, che poi non sono vere e proprie lettere, sono sbobinature di vocali, di messaggi vocali, perché questi messaggi vocali nel corso della latitanza sono stati mandati in una radio, Radio Zapote, per cui anche insomma lui dialogava, diciamo, con il mondo di là, dalla sua condizione di, lui dice, di prigione di libertà, insomma, attraverso questi messaggi. Ok. Allora, messaggio di Miguel Peralta da qualche luogo sulla terra. Dalla limitazione, dietro queste sbarre invisibili, in questa cella universale con guardie incastrate nei telefoni cellulari, nei pali, nei trasporti, che guardano e segnano silenziosamente i nostri passi, ma che non controllano una coscienza, tantomeno il nostro cuore impetuoso. Sono qui, con le mani legate da questa nuova sentenza a 50 anni di carcere, che mi blocca dal poter continuare a gridare e a chiedere con voi la libertà immediata di mio zio, dei miei amici, dei miei compagni in prigione del villaggio di Eloxochitlán de Flores Magón e del mondo intero. Su questa strada paludosa ci siamo conosciuti, ognuno di noi con il suo fuoco, perennemente sulla sua barricata. Condividiamo l'impotenza, l'angoscia, la solitudine, la rabbia, la solidarietà e la vera essenza della libertà, ricostruendo con i pezzetti di abbracci e sorrisi che il vento porta con sé. Mando un saluto a tutti voi, compa, che state rendendo possibile questo lavoro con le iniziative, le mobilitazioni, e che permettete la nostra voce continui a diffondersi in tutti i luoghi in cui c'è resistenza, in tutti i luoghi in cui possono esserci solidali con noi affinché possiamo strappare loro la nostra libertà. Le parole di Miguel Peralta in solidarietà con i prigionieri di Eloxochitlán. Vi saluto, compas. Erminio, Jaime, Alfredo, Fernando e Francisco, dall'altra prigione, dalla latitanza. Vi auguro che oggi otteniate la libertà, possiate tornare a camminare nelle strade senza catene. Anche a Paul e Marcellino auguro che presto riacquistino la libertà e che tutti i latitanti tornino alla nostra Naxinanda, al nostro villaggio. Resistere in carcere, sopportando continuamente i carcerieri, il cibo scadente, lo scarso accesso alla salute, il lavoro mal pagato, il tempo di visita limitato, la necessità di spazi ricreativi, l'assenza delle montagne, della terra, dell'acqua, delle piante, degli animali, del cibo fatto in casa, della famiglia, è un atto di lotta continua. L'attesa di un'udienza in carcere può essere un bombardamento di emozioni che ti travolgono. Ci sono momenti in cui si ha la sensazione di avere le mani legate perché la libertà dipende solo dal raggio d'azione della corruzione. Se non sei presente in tribunale, hai il desiderio di ricevere comunicazioni in ogni momento e di sapere cosa sta succedendo là fuori. Vuoi essere sicuro che si stia svolgendo davvero il processo, il giudice, il segretario degli accordi o il pubblico ministero non se ne usciranno con qualche nuova stronzata per rimandare l'udienza e alla fine finiranno i trucchi per tenerci reclusi. Oggi deve essere quel giorno in cui i loro trucchi sono finiti e le loro marionette del potere non hanno più fili che le tengano. Compagni, chiediamo la vostra libertà ora. Vi vogliamo nelle strade. Prigionieri politici liberi, fermate la persecuzione politica. Miguel Peralta. Era la trascrizione dell'audio di Miguel Peralta che chiede la liberazione dei suoi compagni di Eloxochitlán in occasione dell'udienza del 18 settembre a Huautla de Jiménez, Oaxaca, settembre 2023 si parla. Yeah. Lettera del perseguitato politico Miguel Peralta a 101 anni dall'assassinio di Ricardo Flores Magón. Come state, compas? Vi saluto con molto affetto. Prima di tutto vorrei chiedere un applauso per Angelita Velasco, Genaro Vargas e Alberto Cabanzo, compagni e compagni che hanno lasciato questo mondo e che sono state parte di questa lotta. A 101 anni dall'assassinio di Ricardo Flores Magón, il seme della ribellione che ha gettato continua a dare i suoi frutti, creando saperi, idee, aneddoti e strategie di resistenza. Nonostante le continue incarcerazioni e persecuzioni politiche che ha vissuto anche fuori dal Messico, è sempre rimasto fermo, con una posizione ideologica molto chiara che è necessario ricordare. Rivendicare Riccardo implica l'esistenza di un legame con la comunità, un senso di appartenenza che i potenti non potranno mai cancellare. Vorrei cogliere l'occasione per mandare un grande abbraccio a mio zio Jaime Betanzos e a Erminio Monfil, che sono riusciti a oltrepassare quei muri e sono molto felice di sapere che stanno camminando con la loro gente nel vostro villaggio. Da distante sono con voi. Credo che il distacco dal territorio fisico da cui mi hanno fatto allontanare ha causato un certo sradicamento in me, che mi ha costretto a allontanarmi dalle cose che volevo fare in comunità. Aver smesso di riprodurre le pratiche comunitarie a volte mi toglie il sonno, però mi rimane anche un vincolo radicato, il mio ombelico è ancora lì. L'esilio dalla comunità non significa necessariamente allontanarsi da ciò in cui credi, da chi sei e da ciò che vuoi. Nella latitanza influisce l'angoscia, la paura. Si cammina, si corre, si inciampa nella notte, ma ci si rialza e si continua ad andare avanti con passi più cauti, badando alla sicurezza dei propri compagni complici. Spero che tutti i compagni imprigionati siano presto liberi, che quelli di noi che siamo latitanti, perseguitati, torniamo a casa e che le famiglie siano di nuovo unite. Saluto la banda dei media alternativi, o come si chiamano, che è là fuori e fa tutto il possibile. Saluto anche il compagno Luis Olvera Maldonado e la signora Fili, che tra l'altro hanno dei pulche in sospeso. E sarebbe una specie di grappa. Ah, beh, ecco. Loro. L'esperta. Vi abbraccio. Abbasso le mura della prigione, libertà per Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Duran, Marcellino Miramón e Paul Reyes. Libertà per Jaime e Erminio. Libertà per Jorge Esquivel. Libertà per Carla e Magda. Libertà per Alfredo Cospito, Monica e Francisco. Libertà per i prigionieri politici, Miguel Peralta. Ecco, prima veramente siamo quasi alla fine di questa puntata di Zernis Magnetics. Volevo solo aggiungere l'ultima cosa, insomma, almeno menzionarla. Oggi 24 ottobre ricorre il 40esimo anno di incarcerazione del compagno George Ibrahim Abdallah. E, ecco, solo questo, insomma, è veramente dal 24 ottobre 84 al 24 ottobre 2024, 40 anni di prigione, un'intera vita di lotta. C'è un comunicato sul sito che si occupa di coordinare la solidarietà in favore di questo compagno, che ricordiamo è recluso nella prigione, in una prigione nel, diciamo, sud della Francia, E, domenica si svolgerà una manifestazione, un corteo davanti, con appunto con conclusione davanti alla struttura così detentiva. Niente, ci uniamo anche noi, ecco, ricordiamo anche noi questo compagno con coraggio, insomma non si è mai piegato alla resa e ha lottato per tutti questi anni contro i poteri coloniali. E veramente tutto, io vi saluto, vi salutiamo da questa parte del vetro e lasciamo la linea di là, insomma, che vi daranno i contatti, i saluti finali. A risentirci alla prossima, al giovedì prossimo. Bene, sfumiamo questo brano e ricordo che questa band che stiamo ascoltando in sottofondo è una band tedesca, loro sono i Nakam, dal loro omonimo album che è del 2015 e quindi anche come ho già detto prima, dopo l'intervento, che siamo giunti al termine di questa trasmissione, che il nostro tempo a disposizione sta per scadere. Ricordo che la trasmissione è Tardins Magnetics, in onda qui dai studi di radio Onde Furlane, ogni giovedì dalle ore 20 alle 21.30, completamente in diretta anche oggi, 24 ottobre 2024. Ricordo anche che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste e come di consueto ricordo i nostri contatti per chi volesse scriverci per qualsiasi motivo, può farlo attraverso la posta elettronica scrivendo a liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure potrebbe anche farlo scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo nuovamente, scrivere ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro, codice d'avviamento postale 34121. Inoltre ricordo che questa trasmissione di oggi, ma anche tutte quelle delle volte scorse, potete andare in rete e cercare zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, noi siamo al termine, ci salutiamo, appuntamento per il prossimo giovedì. E salutiamo anche chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Bene, ciao a tutti, vi lascio con un ultimo brano di questi Nakam, band germanica. Ciao a tutti.